Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Mi trovo nella bella Urbino perché sono venuto attratto da una donna bellissima. Una donna che, dopo tanti secoli, è tornata a casa sua, cioè la Venere di Urbino di Tiziano. Si tratta di un quadro straordinario, di una meravigliosa donna nuda posta sul suo letto e nella sua camera da letto, che era stata realizzata per i duchi di Urbino, in particolare per Guidobaldo della Rovere da Tiziano. Questo ragazzo si era appena sposato, voleva nella sua camera, nel suo cubicolo, un quadro un po' osé per scaldare la propria vita coniugale. E questo dipinto è rimasto nelle collezioni dei Della Rovere fino a che questa famiglia si è estinta. L'ultima esponente dei Della Rovere si chiamava Vittoria Della Rovere e nel 1600 sposa un Granduca Medici. Quindi porta via da Urbino tutta l'eredità che gli era rimasta, quindi anche il quadro viene portato da Urbino a Firenze. Naturalmente viene conservato nelle collezioni dei Medici e poi dei Lorena, tenuto molto molto in considerazione, e naturalmente per il soggetto leggermente osé di questa donna appunto nuda e discinta, il quadro venne preso di mira dagli scrittori ma anche dagli ammiratori, tant'è vero che si dovette fare una, diciamo così, un'operazione di precauzione. Innanzitutto venne incaricato un pittore di creare una tela che coprisse le nudità e solo su richiesta si poteva scoprire il quadro e vedere la figura intera. Poi naturalmente quando il quadro andò al museo si dovette ricorrere a un altro sistema di difesa, cioè venne messa una piccola grata davanti al quadro. Per quale motivo? Perché naturalmente i visitatori tendevano a toccare le beltà della Venere, e d'altro canto c'erano i copisti che pretendevano in continuazione di copiare il dipinto perché era diventato nel frattempo famosissimo, e per farlo naturalmente ricalcavano la tela e quindi la rovinavano. I copisti la ebbero vinta perché a un certo punto protestarono talmente tanto per questa grata che la grata venne tolta, però non gli fu dato il quadro, gli fu data una bella copia, e lì i pittori potettero esercitarsi ancora nella copia e naturalmente nel toccamento della bella Venere.